A bordo campo di Dario Ricci. Vogliamo oggi a Costantinopoli, a Bisanzio, a Istanbul, qui a Radio 24 e a bordo campo, perché abbiamo il piacere di ospitare un grande amico dello sport italiano e in particolare anche di Radio 24, che sta svolgendo proprio tra il Bosforo e i Dardanelli una parte importante della sua carriera agonistica. Benvenuto, allora, ben ritrovato a bordo campo a Massimo Barbolini, ex CT della Nazionale Azzurra di pallavolo femminile e allenatore del Galatasaray Istanbul. Ben trovato Massimo. Ben trovato a te, Dario, e ai tuoi radioascoltatori. E allora Massimo, so che sei tra l'altro imbischiato nel traffico di Istanbul, è caratteristica della grande città turca, è difficile farci l'abitudine, immagino. Sì, infatti bisogna cercare di girare il meno possibile in certi orari bisogna girare il meno possibile, perché è una caratteristica, come dici tu, si sa, si trova, uno deve mettersi così l'animo in pace e aspettare. Del resto 18 milioni di abitanti tra Europa e Asia, 15 che vivono proprio a Istanbul, 3 nell'Interland, insomma informazioni che vi diamo, anche perché Istanbul è il punto di ritrovo di tanti campioni dello sport italiano. Massimo Barbolini, appunto, che in squadra ha Simona Gioli e Eleonora Lobianco, due grandi bandiere del nostro volley femminile, ma anche ad esempio il Simone Pianigiani, CT della Nazionale Azzurra di basket e allenatore del Fenerbahce. Beh, segno questo che la Turchia non ha niente da invidiare alle grandi capitali dello sport mondiale ormai, no Massimo? Ma assolutamente sì, diciamo che in questi anni sta crescendo e penso che crescerà ancora questo movimento dello sport in generale, anche perché anche nel calcio stanno iniziando ad arrivare nomi importanti di calciatori. E questa è una cosa importante, perché se prima magari l'attrattiva era, era soprattutto dal punto di vista economico, adesso per gli atleti e anche per gli allenatori c'è la consapevolezza di poter affrontare un campionato di altissimo livello, non solo poche partite, ma tutto un campionato di altissimo livello, e questo ovviamente fa la differenza, oltre che solo all'aspetto economico, quando c'è da fare una scelta così importante. Eh sì, Turchia, che è una delle economie rampanti che si stanno affacciando sul Mediterraneo, inevitabilmente questo attira i campioni e alza il livello delle competizioni. Beh, campionato femminile di volley competitivo, quali sono le principali rivali? Parlaci un po' di questo torneo. Ma è un torneo che sta crescendo anno dopo anno, è un torneo che vede più o meno 4 squadre ad alto livello, a livello superiore, sono il Zagibas, Vakifbank, Galatasaray e Fenerbahce, te l'ho detto nell'elenco della classifica dell'appena terminato girone d'andata, però anche sotto vede squadre rispetto agli altri anni che possono dare fastidio. È un campionato che con una regola di 3 stranieri o 2 che possono giocare, per cui essendo le straniere forti in tutte le squadre principali, la differenza viene fatta molto ancora dalla presenza più o meno giocatrici di turche di alto livello. Ti sei portato dietro a Istanbul due campionesse d'eccezione del nostro volley, no? Eleonora Lobianco, la grande palleggiatrice della tua Italia, e Simona Gioli, insomma, una leonessa che ha bisogno di ben poche presentazioni. Hai voluto costruire intorno a loro il nucleo della tua squadra? Ma sai, penso che sia importante per un allenatore, quando inizia un'esperienza in una realtà nuova, avere delle sicurezze, e avere due atlete di altissimo livello con cui si lavora da tanto tempo è una di queste sicurezze, per cui sia dal punto di vista tecnico che sia dal punto di vista, appunto, di quello che può essere l'esempio, di quello che può essere la certezza, no? Per un allenatore, come fanno tutti, penso che sia una cosa abbastanza logica e normale, se possibile, di avere appunto giocatori intorno, prima di tutto di altissimo livello e poi che conosci e che sai che possono aiutarti in determinate situazioni, soprattutto all'inizio. Ecco, qualche difficoltà particolare ad abituarsi al campionato femminile nel senso degli usi e dei costumi, insomma, sappiamo Turchia sempre contesa tra Europa e Asia, tra l'Islam e il laicismo, e anche per le donne immagino situazione sempre complessa, no? Ma onestamente dico, non ho riscontrato questo, anche perché Istanbul mi sembra una città abbastanza aperta all'Europa, in tutti gli usi e i costumi, quindi anche nello sport diciamo che non ci sono per le ragazze delle situazioni, non si vivono quelle situazioni che magari si vivono in paesi musulmani, anche vicini, molto più estremi. Per cui da questo punto di vista assolutamente non ho riscontrato nessuno problema, assolutamente. Senti, dal punto di vista culinario, la cucina, per te che sei modenese, quindi direi abituato bene, ti sei adattato ai vari cibi turchi? Sì, piano piano mi adatto, però qualche traccia di salume me la porto sempre. Con me. C'è sempre il salamino in valigia. È facilissimo trovarlo, qua il suino non va molto di moda, però qualche cosina di salume me lo porto sempre, sia per il gusto sia per sentirmi sempre un pochino più vicino a casa. Giusto anche per una forma di rispetto di dove vai, è importante ambientarsi anche da quel punto di vista e fa anche piacere appunto provare determinate cose, però ripeto, anche giusto più che per un discorso culinario, anche per un discorso, diciamo così, no, di sentirsi ogni tanto a casa, fa piacere avere qualche prodotto tipico. Assolutamente d'accordo. Un Istanbul che è una delle tre candidate ufficiali a quelle Olimpiadi 2020 che, noi sappiamo bene per motivi noti, Roma ha rinunciato a quella corsa. Se la vedrà nel settembre prossimo con Tokyo e Madrid. È pronto lo sport turco, ma soprattutto anche il mondo culturale, politico, economico turco che tu hai avuto modo di incontrare, che stai conoscendo, ad una sfida così grande? Io penso di sì, perché io ho visto negli anni i cambiamenti che ci sono stati in Turchia e secondo me adesso hanno innestato, diciamo, la quinta marcia, nel senso che vanno molto veloce e copiano le cose subito ad alti livelli, non fanno dei passaggi molto lenti, cercano di copiare subito anche nella vita normale, non solo nello sport, quello che può essere il massimo livello. Per cui avere un'Olimpiade, sapere che tra 7 anni ci sarebbe un'Olimpiade, potrebbe essere una molla in più per questa, che soprattutto è un'economia molto crescente. Questo, per avere un'Olimpiade in casa, può essere, no, una cosa molto importante. Difatti io onestamente, per quello che posso capire, io mi sembra che l'avversario principale possa essere Tokyo. Però l'attrattiva di dare un'Olimpiade a un paese musulmano per la prima volta, penso che potrebbe essere una carta in più. Ecco, di solito crescite così dirompenti portano anche a distonie, a squilibri. Che cosa non ti sta piacendo della Turchia che conosci invece? Ma onestamente non dico mi sta piacendo tutto, ma non vedo grosse problematiche nella vita. Poi è ovvio, come si può vedere magari, come in tutti i grossi paesi che crescono molto in fretta, puoi notare le grosse differenze, eccoci. Però tra quella che può essere la gente che sta bene e la gente che invece va magari ancora in giro a raccogliere i rifiuti per fare una cosiddetta raccolta differenziata, per fare un esempio abbastanza banale. Però è ovvio, questa differenza, la grossa differenza tra chi sta bene e chi sta male, questa forbice all'inizio nei paesi di grande sviluppo così immediato si sente molto, si vede molto. Sicuramente anche questo è una cosa che, con l'incremento appunto delle possibilità economiche, andrà sicuramente diminuendo questa forbice. Senti, Istanbul è a metà strada tra Londra e Pechino, le due Olimpiadi che hai affrontato e vissuto alla guida della nazionale azzurra e che si sono risolte purtroppo senza il risultato sperato, no? Senza quel podio cui la tua squadra ambiva e puntava decisamente. Rimpianti, soprattutto adesso che hai lasciato quella panchina? Ma rimpianti, diciamo, i rimpianti si collegano a qualcosa che uno poteva fare e non ha fatto. Diciamo, il rimpianto non è tanto per quello, il rimpianto è il dispiacere, ecco, cioè di non aver raggiunto un risultato, di non aver raggiunto, di non essere riuscito a raggiungere un risultato che probabilmente era a nostra portata, come era anche per altre 7-8 squadre comunque, che in due occasioni purtroppo ti è sfuggito. Però ti dico, è una cosa passata, è ovvio, però bisogna sempre pensarci, secondo me è importante quando le cose vanno male ricordarsele, perché è un'esperienza in più, perché è facile pensare quando va bene. Anzi, tante volte gli insegnamenti si prendono quando le cose vanno male. Quindi è stata una, due esperienze bellissime. spero magari, chissà, tra qualche anno di poterla ripetere magari con un'altra nazionale, perché no, e quindi guardiamo avanti assolutamente. Anche perché dalla panchina del Galatasaray a quella della nazionale turca, tutto sommato immagino che il passo non sia poi lunghissimo da fare. No, beh, ti dico, è molto breve, potrebbe essere molto breve, quindi chissà, tra qualche settimana di non poter vedere anche in quell'ottica lì. Quindi c'è stato già un sondaggio da parte della federazione, ne state parlando? Sì, si sta parlando, si sta vedendo, vedremo un attimino come vanno le cose, però ti dico, per me era importante prima di tutto trovare la possibilità di lavorare durante l'anno, perché io, come ho detto più volte, penso che un allenatore non possa ridursi per 6 o 7 anni a lavorare solo esclusivamente d'estate, perché ha bisogno, secondo me, di fare esperienza, di sbagliare, di fare bene, di provare. Per cui per me era importante avere questa esperienza, adesso lo sto avendo, sono molto contento perché la squadra sta facendo bene, vedo che c'è possibilità per lavorare bene, poi vedremo, in futuro vedremo. Volendo dare delle percentuali, a quanto siamo rispetto a questa firma per la panchina della nazionale turca? Ma siamo sopra il 50, eccoci. Siamo sopra abbondantemente sopra il 50. Quindi, conoscendo la tua prudenza, siamo anche molto vicini al 100. Abbastanza. Hai detto dispiacere per il risultato che è mancato a Londra, amarezza invece per quello che è accaduto dopo quell'esperienza, le polemiche che Francesca Piccinini ha sollevato rispetto al clima che c'era in quella squadra. A distanza di qualche mese, come hai metabolizzato quella polemica? Da parte mia ti dico, è stato talmente bello questa esperienza in nazionale che non è sicuro che vada, quando penso alla nazionale non penso sicuramente a queste cose. Penso che assolutamente nulla possa togliermi le immense gioie che ho vissuto in questi anni e che ricorderò sempre con tantissimo piacere, anzi passando il tempo sicuramente con molto più piacere. Anche perché basta scorrere il palmarès e ci sono le sconfitte alle Olimpiadi, ma ci sono anche due ori europei, due coppe del mondo vinte in maniera straordinaria. Beh, insomma, il problema è sempre quello dell'Italia, questo, diciamo, nel mondo sportivo nostro, che una volta che arrivi primo, la volta dopo devi arrivare primo ancora meglio di quanto fosse possibile, ancora meglio di arrivare primo. Beh, allora, Massimo Barbolini in diretta da Istanbul, l'in bocca al lupo è quello di vincere tanto con il Galatasaray e di conquistare a questo punto tanti secondi posti dietro alle azzurre con la nazionale, con la nazionale turca, mi raccomando, non facciamo scherzi. Non posso dire crepi il lupo dopo che hai detto così. Grazie mille comunque. Grazie mille, in bocca al lupo, e grazie per essere stato nostro ospite a bordo campo. È come sempre un piacere. 50 metri si distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe Carmina Bagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'inferno che sta attaccando. Mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout, ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza. Eh sì, quante volte abbiamo gioito davanti alla TV sentendo le leggendarie telecronache di Giampiero Galeazzi scandire quelle volate verso la linea d'arrivo dei fratelli Carmine e Giuseppe Abbagnale, timoniere Peppiniello di Capua, insomma, nomi che sono nella leggenda dello sport italiano, del canottaggio italiano, ma direi dello sport olimpico mondiale. E allora, perché parliamo oggi di canottaggio qui a bordo campo? Perché quel Giuseppe Abbagnale, che in carriera ha dato spettacolo con il fratello, remi in mano, adesso è passato dietro la scrivania ed è presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Beh, Giuseppe, benvenuto a bordo campo qui a Radio 24. Un bel salto dall'imbarcazione alla scrivania. Ma diciamo che io dietro alla scrivania ormai ci sono da un po' di anni, perché io già prima di mettere di remare, parlo del 94, sono entrato in consiglio direttivo del Cifrone di Costaggio, la società per cui gareggiavo. Quindi ormai sono anni che posso dire di essere dall'altra parte della barricata. Chiaramente però il ruolo di presidente della Federcanottaggio ti dà nuove responsabilità e soprattutto la necessità ora di impostare un programma olimpico che punta decisamente chiaramente a Rio 2016. Ecco, quali sono i principi di questo programma? Sicuramente ricostruire un'area tecnica basata su principi e su metodologie accantonate negli ultimi anni. Questo dovrebbe dare sicuramente nuovo slancio e soprattutto ricompattare un ambiente che soprattutto nell'ultimo quadriennio si è deteriorato al massimo. Sottolineo un punto centrale, perché anche nella votazione col tuo rivale, quell'Enrico Gandola, che era il presidente uscente della Federcanottaggio, i voti sono stati tutto sommato quasi distribuiti alla pari, 129 per te, 118 per Gandola, segno che il canottaggio italiano vive un momento certo non florido. Londra 2012 inevitabilmente, come spesso accade, ha confermato in acqua nel bacino di Eton Dorney questa sensazione. È arrivata un'unica medaglia da un equipaggio, quei Battisti e Sartori, che si erano di fatto allenati da soli prima di sbarcare in Inghilterra, al di fuori del contesto della nazionale. Ecco, amareggiato tra l'altro da quel risultato, che effetto t'ha fatto? Perché sappiamo bene come il canottaggio sia una delle ammiraglie del nostro programma olimpico. Ma sicuramente io già precedentemente all'inizio dei giochi olimpici non mi aspettavo una grossa performance dalla nostra nazionale. Per quanto riguarda il doppio invece di Alessio e Romano, io avevo grande fiducia in virtù anche del programma che stavano svolgendo, ma soprattutto con le intuizioni di Franco Cattaneo, il loro allenatore, che in sintonia anche con la Mura si erano dato un percorso e un avvicinamento programmatico per i giochi olimpici. Quindi diciamo che quel risultato per me non è stata una sorpresa. Bisogna anche dire che lo spettacolo, tra virgolette, andato in scena a Londra da parte del nostro canottaggio è quello che forse ha fatto più male. Un ambiente diviso, spaccato, il CT De Capua, che poi ha pagato i risultati scadenti con la rimozione, e una situazione da tutti contro tutti che va inevitabilmente ricostruita. Da questo punto di vista, come si può lavorare per ricreare quell'armonia che, se non è condizione necessaria per la vittoria, però sicuramente non guasta? In primis c'è la ricostruzione dell'area tecnica e quindi con a capo sicuramente una persona di carisma e che abbia, come dire, intorno a sé delle persone stimate e che anche al loro interno possono lavorare in sintonia. La Mura sicuramente farà parte di questo programma, perché io ritengo non si possa perdere il suo sapere e anche il suo sistema, il suo metodo, e quindi sicuramente dovrà ancora, almeno per questo quadriennio, portarci avanti con le sue idee. Da qui a Rio naturalmente dobbiamo anche lavorare in funzione di un passaggio di testimone poi con la Mura. Pur vero che nelle edizioni dei mondiali giovanili che si sono susseguiti in questo quadriennio i risultati tutto sommato sono arrivati, quindi comunque questo sport continua a esercitare il suo fascino e soprattutto ci sono talenti su cui lavorare, o sbaglio? Sì, c'è sicuramente una buona squadra junior che in questi anni ha fatto bei risultati, una discreta squadra under 23, e naturalmente da queste basi noi dobbiamo partire. Sappiamo anche però che il passaggio da junior a senior è un passaggio molto gravoso, quindi c'è bisogno di molto lavoro. Molti paventano il rischio che con l'arrivo di Giuseppe Abbagnale si torni a un canottaggio romantico che non corrisponde però più agli indirizzi del canottaggio moderno, che è quello non solo degli inglesi, diciamo così, ma anche di nazioni che sono rapidamente arrivate al vertice. Mi vengono in mente l'Australia oppure la sorprendente Nuova Zelanda di queste ultime grandi manifestazioni mondiali. Ecco, come si rimane al passo coi tempi, Giuseppe? Ma io non conosco un canottaggio allegro, io purtroppo conosco un canottaggio dove c'è programmazione, c'è lavoro, c'è soprattutto una costruzione per arrivare a un risultato. Il risultato non si improvvisa. E poi, scusami, tu hai fatto un esempio di due nazioni fondamentali, tra le più forti in questo momento nel panorama internazionale, Nuova Zelanda e Australia, le quali non a caso hanno dimostrato e hanno anche riconosciuto di adottare un meglio del sistema che noi abbiamo abbandonato. Eh sì, tra l'altro poi l'Australia viene anche spesso a svernare qua da noi, qua proprio in Lombardia, se non sbaglio. Sì, è di casa, naturalmente a Varese, esattamente dal lato della Cavirate, e hanno costruito anche un centro dove loro spesso sono lì ad allenarsi. Ecco, insomma, non dategli tutti i segreti, canguri, facciamoli un po' sudare per conto loro. Giuseppe, ti chiedo ancora, momento difficile per lo sport italiano, abbiamo visto c'è una fuga di cervelli, soprattutto fra i tecnici, ha fatto scalpore il caso del grande condottiero del Fioretto, Stefano Cerioni. Abbiamo i soldi per mettere in pratica questi progetti? Su che budget, su che forze può disporre la Federcanottaggio in momenti sicuramente grami e non solo ai noi per lo sport? Ahimè, questo è il lato dolente. Naturalmente il budget è sicuramente in diminuzione, il CONI ci ha preannunciato un taglio anche per il prossimo anno e noi dobbiamo lavorare anche in funzione di questo. E dobbiamo sicuramente però ottimizzare le risorse che noi abbiamo e cercare di lavorare, anche se con meno risorse, cercare di lavorare meglio e mettere a frutto di più quello che noi abbiamo in cassa. Prima di salutarti, Giuseppe, toglici una curiosità: ma Carmine dove l'hai lasciato? Pepinello di Capua, che ruoli avranno in questo tuo nuovo progetto che ti vede a guida della Federcanottaggio? Ma Carmine era un po' uscito dall'ambiente, come pure Pettino. Io mi auguro che possa prendere il mio posto nella canottieri e ricoprire il ruolo che avevo io in precedenza. Peppino si è straniato un po' a causa del lavoro, un po' perché ha ereditato la gestione dell'azienda di famiglia, che era un antico biscottificio storico di Castellammare, e lo sta portando avanti, visto che il papà non c'è più, è lui che contribuisce insieme alla mamma ancora attiva a portarlo avanti. Quindi il tempo a disposizione per il canottaggio è estremamente ridotto, ecco perché è uno dei motivi per cui lui è un po' estraneato. Ma toglimi una curiosità, ogni tanto ve la fate una rematina tutti e tre insieme? Sicuramente all'inizio di ogni anno noi siamo in canottieri, perché abbiamo questa tradizione, vecchi, nuovi canottieri, uscire insieme in barca, quindi almeno una volta all'anno ci ritroviamo. Staremo a vedere come cambierà il mondo del canottaggio italiano sotto la guida di Giuseppe Abbagnale. Intanto per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e riascoltarci attraverso il nostro sito internet www.radio24.it. L'appuntamento, come sempre, per domenica prossima alle 14.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.